Prima edizione. E ancora un ben svegliati e ancora un buon mercoledì da Anna Migliorati. Sono le 6:15 e cominciamo a raccontare questa giornata con Prima edizione e, come ormai di consueto, cominciamo dando uno sguardo ai giornali che troverete questa mattina in edicola. Già vi dico che sostanzialmente sono due le notizie con titoli abbastanza simili un po' su tutti i quotidiani questa mattina. La prima riguarda il governo sotto assedio, come titola il Corriere della Sera, le polemiche dopo il declassamento di Standard & Poor's di ieri, di cui ieri abbiamo parlato a lungo, ultimatum di Confindustria, Berlusconi colpa dei media e poi Napolitano boccia la secessione. Quindi la pagina politica ad aprire il Corriere della Sera, ad aprire anche la Repubblica: Italia declassata via Berlusconi, Confindustria, il governo vada a casa. La Stampa, triplo allarme per l'Italia, il titolo è un po' diverso ma il tema è lo stesso, il Fondo Monetario taglia le stime della crescita, l'Unione Europea chiede le riforme, Standard & Poor's non esclude un nuovo declassamento, l'esecutivo scelta politica. C'è un'immagine sulla Stampa che campeggia in prima pagina, sono gli indignados a Wall Street, la marcia di protesta contro la finanza americana fermata dalla polizia. Centro pagina, anche qui sostanzialmente simile un po' per tutti i quotidiani, Napoli non è competente, l'inchiesta passa a Roma, parliamo del caso Tarantini, il GIP dà ragione alla difesa del Cavaliere, il Corriere della Sera, il GIP a Roma, l'inchiesta Tarantini, Napoli non competente, la Repubblica e anche qui la Stampa, a Roma l'inchiesta Tarantini, il tema davvero sempre lo stesso. Sul Corriere della Sera c'è invece anche un'immagine del partita ieri giocata a Novara tra Novara e Inter che potrebbe costare cara sulla panchina dei nerazzurri, ore contate per l'allenatore Gasperini, l'Inter a pezzi, Novara in festa, così il Corriere della Sera, che su cui spicca anche sulla prima pagina spicca anche un'altra notizia, gli affari svizzeri con gli atleti dopati, indagine su banche, ciclisti e medici, banche svizzere sotto accusa, si sono arricchite con i super atleti drogati, inchiesta per riciclaggio e truffa, 30 indagati, così leggiamo dal Corriere della Sera. Oggi il Sole 24 Ore, anche qui l'apertura dedicata all'Italia declassata, emergenza crescita, così scrive il Sole 24 Ore. Napolitano, sforzo comune per il rilancio, Marcegaglia riforme o governo a casa. Ma già vi segnalo che c'è soprattutto un editoriale sulla prima pagina del Sole 24 Ore a firma del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Il titolo già dice molto: signor Presidente, l'Italia prima di tutto, il Premier e il gesto necessario. Ne parleremo poi nel corso della mattinata anche nella più ampia rassegna stampa attorno alle 7:20 con Alessandro Milan, ma vi leggo giusto qualche riga. La credibilità del paese in questo momento è un bene troppo importante. Il Presidente del Consiglio dimostri di amare davvero l'Italia ed avere di conseguenza la forza e la volontà di farsi da parte. Se è costretto a prendere atto che non riesce a fare quello che serve, lo faccia nell'interesse del paese, si comporti da uomo di Stato e da uomo dell'economia. Così il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. La Stampa straniera come ci vede? I siti questa mattina dei giornali stranieri, ancor più interessanti dopo la decisione ieri di Standard & Poor's di declassare l'Italia. Allora, ecco cosa scrivono di noi tedeschi. Der Spiegel apre questa mattina con una immagine del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il Presidente italiano. Il titolo è quanto mai eloquente: Berlusconi è testardo anche più degli europei. L'agenzia di rating Standard & Poor's scrive: il Der Spiegel ha declassato l'Italia, ma il Premier Berlusconi le definisce decisioni non realistiche e aggiunge: l'esempio mostra come poca influenza sui membri europei indebitati abbiano le agenzie di rating, anche se la BCE li aiuterà con miliardi. I tedeschi, quanto mai scettici, non solo, soprattutto sugli aiuti alla Grecia, punzecchiano anche l'Italia e non poco questa mattina. Sotto, sempre su Der Spiegel, gli ispettori della Troika ritornano ad Atene. Un veloce stato di fallimento dalla Grecia è un po' meno probabile. La prossima settimana si tratterà ancora, e già vi anticipo che anche noi andremo ad Atene a capire come sono andati i negoziati di questa notte. E a bacchettare invece i tedeschi è il Financial Times, i tedeschi segnati da un miracolo, questo è il titolo di questa mattina, un articolo che punta il dito sulla riluttanza della Germania ad essere più flessibile per le regole, per una sorta di... prendendolo sarà un po' con i partner della zona euro, come ripicca contro i partner della zona euro. Wall Street Journal parla di crisi ma da tutt'altro punto di vista, previsione di dolore per le case, apre il sito questa mattina, gli economisti, i costruttori e gli analisti prevedono che negli Stati Uniti l'economia deprima i prezzi delle case ancora per anni. Così lo sguardo alla stampa italiana e internazionale, ma come sempre a prima edizione torniamo anche alle notizie delle ultime ore. E già lo raccontavamo ieri, questa è una settimana nella quale succederà molto durante la notte a New York, perché c'è l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un'occasione importante anche per i leader internazionali di ritrovarsi insieme e di discutere di quelle che sono le questioni più cruciali. E questa notte si è discusso molto di Libia. Io saluto Laura Bettini. Buongiorno, buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Sì, si è parlato molto di Libia, anche se a margine ancora dell'Assemblea Generale dell'ONU. C'è stata la riunione degli amici della Libia, che è il raggruppamento informale di circa 60 nazioni che ha preso il posto del gruppo di contatto che si era riunito a Parigi all'inizio del mese. Bene, a New York appunto questo gruppo si è riunito, adesso si chiamano appunto gli amici della Libia, e si è riunito dopo che tra l'altro venerdì scorso all'ONU erano state accettate le credenziali della nuova leadership libica, rendendo quindi ufficiale il passaggio dal regime di Gheddafi al CNT, il Consiglio Nazionale di Transizione Libico, come legittimo rappresentante del paese. Come è andata questa riunione? Pare sia stata un successo l'intervento della NATO in Libia, ha detto subito il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, dovrebbe essere d'esempio per il futuro. È così, ha detto Obama, che la comunità internazionale deve funzionare nel XXI secolo, con più nazioni che si prendono le responsabilità e il costo delle sfide globali. Obama, che prima della riunione aveva incontrato il presidente del CNT Mustafa Jalil, ha spinto per una transizione democratica subito. La Libia avrà un governo entro una settimana, 10 giorni al massimo, ha affermato al termine della riunione Mahmoud Jibril, che nel CNT svolge le funzioni di premier. Per l'Italia, alla riunione c'era il ministro degli esteri Franco Frattini, che con Jibril, quindi con il premier, ha discusso della possibile riattivazione del trattato di amicizia Italia-Libia, che è stato sospeso durante le ostilità. Roma, ha detto Frattini, può offrire un valore aggiunto per la ricostruzione della nuova Libia democratica, per le nostre tradizioni e la nostra profonda conoscenza del territorio. Ecco, tra l'altro Laura, ci sarà anche da decidere che succederà per quanto riguarda la missione NATO. Perché la missione NATO attualmente è in vigore fino al 27 di settembre. Oggi però l'Alleanza Atlantica potrebbe decidere di prolungare di altri 3 mesi la missione in Libia, ma ogni 30 giorni gli alleati compiranno una verifica in base agli sviluppi della situazione sul terreno per vedere se appunto sono necessari 3 mesi o meno, e ci auguriamo non di più. Per quanto riguarda l'Italia, se il Parlamento approverà la proroga della missione, il ministro La Russa ha detto che il Ministero della Difesa ha dei risparmi con i quali poter provvedere a questa necessità. E grazie allora a Laura Bettini, continueremo a raccontarvi anche dei prossimi giorni cosa succede a New York. Voltiamo ancora pagina e cominciamo da un'ultima ora battuta in questo istante dalle agenzie. È stato catturato nella notte l'uomo che ieri sera a Roma ha investito con la sua auto un rumano di 68 anni, riducendolo in fin di vita dopo aver scippato sua moglie. Si tratta di un pregiudicato. L'arresto è avvenuto a seguito di un'operazione che ha visto oltre 20 pattuglie di polizia impegnate nella notte. Ve lo racconteremo ancora e cercheremo di darvi più avanti altri particolari. Ora però parliamo di sport. Ve l'avevamo promesso che saremmo tornati a collegarci con Dario Ricci, era un po' un classico del secolo scorso, quello che è andato in scena ieri sera, Novara-Inter. È finita con la neopromossa Novara che ha battuto l'Inter 3-1, ma dobbiamo subito dire che davvero non è stato un grande spettacolo. Ancora buongiorno Dario Ricci. Sì, buongiorno Anna, beh, davvero troppo brutta per essere vera. L'Inter che si è vista ieri sera a Novara nel 3-1 per i piemontesi, un Inter lenta, confusa, che va in difficoltà appena si alza il ritmo della partita, cosa che è capitata spesso contro un Novara in splendida forma e veramente ben allenato da mister Tesser. Ecco, ma è stata davvero tutta colpa di Gasperini? Beh, l'elenco delle responsabilità di Gasperini a questo punto è lungo. L'aver insistito sempre sulla difesa a tre, non aver probabilmente centrato anche la preparazione fisica, non aver in qualche modo detto la sua anche su un mercato che è stato condotto dalla dirigenza interista senza forse tener conto del parere del neo tecnico. E poi Gasperini ci ha messo del suo anche con delle scelte veramente discutibili, una su tutte ieri sera: lanciare titolare l'Acerbo Castagnos al posto di Pazzini, centravanti della nazionale che finora ancora non aveva esordito in campionato. Poi Pazzini è entrato nel secondo tempo e guarda caso è stato l'unico dei nerazzurri che in qualche modo ha sfiorato il gol. E poi insomma certo c'è la condizione fisica approssimativa di molte delle bandiere dell'Inter che appena 2 anni fa ha vinto tutto, basti pensare alle condizioni fisiche di Cambiasso e Milito. Cosa dobbiamo aspettarci, Dario? È difficile capire cosa potrà accadere ora, perché ieri sera Moratti, lasciando lo stadio, il Silvio Piola di Novara, ha detto aspettiamo che passi la nottata. La sensazione è che però questa mattina, quando aprirà gli occhi e si risveglierà, l'incubo di un inizio stagione così travagliato non sarà svanito e molto probabilmente a questo punto la soluzione sarà proprio l'addio di Gasperini. Quali potrebbero essere i sostituti? Beh, i nomi che si sono fatti in questi giorni, da Ranieri ad Ancelotti o anche a quello di alcuni ex campioni legati a doppio filo alla società interista come Figo o addirittura Roberto Baggio. Staremo a vedere, certo però che se posso concludere esprimendo una mia opinione, credo che la panchina di Gasperini abbia davvero le ore contate. Prima edizione. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. È il momento di tale incontro luce, anche oggi questa settimana, a raccontare i partiti politici che cambiano in un'Italia che cambia. Terza puntata. Italia incontro luce. Buongiorno, oggi è il 21 di settembre e vi parla Daniele Biacchesi, come sempre in questa fascia oraria in diretta tra le 6 e le 7 in cui raccontiamo l'Italia e il mondo. Il Movimento 5 Stelle, quello che fa capo a Beppe Grillo, è dato al 3,5% negli ultimi sondaggi politici. Nelle elezioni regionali ha contribuito a far perdere il candidato di centrosinistra Mercedes Bresso in Piemonte, ha asciugato di molto il voto del PD in Emilia, Toscana e in alcune altre città italiane. Ma all'interno del Movimento non sono tutti d'accordo con Beppe Grillo. Le testimonianze raccolte da Barbara D'Amico. Non c'è democrazia nel Movimento di Beppe Grillo, non a caso il marchio è di sua proprietà. Questo qui è un partito, è movimento, sì, sono tutti questi eufemismi. È il misto fra Balilla e Grillini. Balillini hanno calpestato il primo principio del movimento di Beppe Grillo. Una persona vale per una persona, le preferenze sono il nostro credo. Chi se l'ha inventato? Poi mi dici dove le leggi queste cose. In realtà non solo io, ma anche gli altri candidati di regione del Movimento 5 Stelle sono candidati nei 3 collegi, come prevede la legge, perché non c'è altra soluzione. Ripeto, se l'elezione, una volta superato il quorum della persona su cui tutto il movimento, votando una testa un voto, fosse garantisse l'elezione automatica, non ci sarebbe bisogno di 3 collegi. Essendo la legge elettorale un po', come dire, bizzarra, è stato d'obbligo seguirla, ma noi ci siamo tenuti semplicemente alle leggi. Premetto che in tutti e 3 collegi io, con la preferenza diretta dei cittadini, sono stato scelto e arrivato primo, quindi sono le classiche polemiche strumentali. Cioè, io ci ho creduto fino in fondo a questo movimento che doveva essere dal basso, che sembrava nascere appunto dai comitati, da associazioni, anche per l'esigenza di portare avanti appunto la voce di qualcuno che spesso magari non ce l'ha. E poi in realtà io non mi aspettavo che in qualche modo fosse pilotato dall'altro. In realtà, non essendoci stata una regola nostra, quindi non di legge, nostra prima, è successo questo, evidentemente ha anche portato un danno d'immagine. quello che noi andiamo a vedere, che noi andiamo sui media diciamo nazionali, in realtà esclusivamente per questi argomenti, cioè non si parla mai del Movimento 5 Stelle su media nazionali perché i consiglieri regionali si sono autoridotti lo stipendio a 2.500 euro. Per quanto riguarda lo stipendio, qua c'è una mistificazione spaventosa. I consiglieri regionali, penso anche quelli del Piemonte, ma quelli dell'Emilia Romagna, loro dicono: noi ci teniamo 2.500, adesso 2.700 euro, tutto il resto non lo vogliamo. Ma non è però che loro lo restituiscono alla regione e quindi la regione come ente pubblico lo distribuisce per i fini pubblici che ha. No, se lo tengono il resto per fare delle campagne che gli interessano politiche. Quando c'è stato il momento di essere operativi per le regionali, ha detto i candidati sono questi, e noi abbiamo detto ma questo non è della nostra città. Poi quando ci dici che è questo il candidato, non vale più un uomo un voto, stai dicendo che cosa bisogna fare. Questo è successo dappertutto qua nel Veneto. Con questa scelta imposta dall'alto c'è stata praticamente la rottura. Il Movimento 5 Stelle, il confronto alla Lega è molto meglio. Era la prima edizione di Italia in Controluce, torniamo con i reportage e le inchieste oggi alle 13.30. E con prima edizione alle 6.40 minuti torniamo a quella che è stata la notizia che ha dominato per tutta la mattinata di ieri, il declassamento dell'Italia da parte di Standard & Poor's. Il governo italiano nel corso della giornata ha attaccato Standard & Poor's, ma non solo, anche le agenzie di rating, dicendo che danno troppo ascolto ai media. Noi questa mattina ripartiamo da qui e ripartiamo innanzitutto con la replica delle agenzie di rating affidata al numero uno di Fitch Rating Italia, Mario Cecchi De Rossi, fino a poche settimane fa e per 11 anni appunto numero uno di Fitch Rating Italia, lo ha intervistato Sebastiano Barisoni. Le agenzie di rating fanno parte del mondo dei media e sicuramente usano i media anche come fonte di informazione, ma nello stesso tempo sono dei produttori di informazione completamente autonomi rispetto agli altri media. Le agenzie di rating tutte hanno una autonoma, come dicevo, capacità di analisi sia tecnico-finanziaria sia economica, ma ripeto, hanno una capacità autonoma di elaborazione. Così dunque le agenzie di rating, ma spostiamoci per un po' dall'Italia e andiamo là dove tutto è cominciato, o quasi, almeno per quanto riguarda l'Europa, vale a dire ad Atene, dove c'è Vittorio D'Arolde del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a voi. Una sveglia un po' meno dolorosa della nostra, da te sono le 7:42 minuti, Atene si è risvegliata, anche questa notte però è stata una notte importante perché ci sono stati altri contatti col Fondo Monetario e con la BCE, la sensazione qual è? Si è vicini o no una soluzione per la Grecia, Vittorio? Ma dunque, Atene si è risvegliata sotto la pioggia, cosa che qui non accadeva da 3 mesi, quindi anche meteorologicamente diciamo non volge esattamente al bello. Che cosa sta succedendo? Il Fondo Monetario, la Troica, composta appunto dall'Unione Europea, Fondo Monetario e BCE, vogliono tagli strutturali, riforme strutturali, cioè la Grecia ha per un anno promesso tagli e aumenti di tasse, adesso ad esempio hanno proposto la tassazione degli immobili per cifre variabili a seconda del pregio dell'immobile per 2 miliardi da consegnare nelle casse dello Stato entro dicembre, perché il deficit continua a correre più di quanto era stato previsto. I conti fatti dal Fondo Monetario non sono stati raggiunti, anche perché è il terzo anno di recessione, si prevedeva una recessione di 3,5 punti, in realtà sarà di 5,5 punti, l'anno prossimo si prevedeva il ritorno alla crescita e invece c'è già un -2% dello stesso Fondo Monetario. Insomma, la crisi è molto più pesante di quanto si era previsto. La Grecia in qualche modo ci spiega che cosa potrebbe accadere a noi in Italia, cioè se non si fanno quei tagli strutturali, loro hanno tagliato le province dopo un lungo dibattito, hanno ridotto il numero di politici rappresentanti, adesso per ogni isola ci può essere solo un sindaco. Prima i temi sono sempre gli stessi, più o meno sono sempre quelli. Vittorio, dovremmo abituarci a queste lunghe riunioni notturne per cercare di tirare le fila con BCE e Fondo Monetario che dettano un po' le regole ad Atene? Sì, esattamente. Il vero problema è cercare di anticipare tutto questo. Cioè sono cose che tutti noi sappiamo, ad esempio le liberalizzazioni. La Grecia le ha fatte, ad esempio liberalizzando il settore dei trasporti, dei camionisti e dei tassisti che ancora oggi continuano a scioperare a tratti alterni, però sono riusciti finalmente a far passare queste deregolamentazioni, questi accessi alle libere professioni che prima erano molto chiusi, adesso stanno cercando di renderli più facili, cioè i soliti problemi che anche noi conosciamo. È tutto un mondo che è rimasto in qualche modo legato a funzioni già economia aiutata, sostenuta, dove a volte c'era anche un po' di clientelismo con l'assunzione. Che in qualche modo, con le diciamo un po' costretta dall'esterno, a questo punto deve cambiare. Sì, esattamente, è il vincolo esterno, questo è il vero problema. Però ieri sono andato a intervistare il sindacato dei pubblici dipendenti, il segretario generale, che naturalmente, perché la questione in questo momento è il fatto che la Grecia ha 750.000 dipendenti pubblici su una popolazione complessiva di 12 milioni, a questi poi si aggiungono tutti altri, una serie di altri dipendenti. E a questo punto ci vogliono altri tagli anche qui. Vogliono tagliare un 100.000-120.000 posti e il sindacato naturalmente si ribella e si prepara a fare le barricate. E allora sicuramente il tabù però va rotto, questo è il vero problema. Cioè, il vero problema della Grecia e non solo. Prima edizione. Portiamo a Lampedusa per sentire cosa sta succedendo questa mattina. Ieri pomeriggio un incendio nel centro di accoglienza che ospita gli immigrati tunisini. La situazione è apparsa difficile. Il sindaco Bernardino De Rubeis, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come è andata la notte? Come va stamattina? Ma intanto siamo in attesa di altri aerei che dovrebbero trasferire altri immigrati. Ieri notte due aerei che hanno trasferito 100, c'erano circa 200 immigrati nel Porto Vecchio che protestavano e non volevano unirsi agli altri, cioè all'interno del campo sportivo, perché come sapete il centro ieri sera era inagibile, 3 dei 4 padiglioni sono andati a fuoco. Attendiamo notizie da parte dei vigili del fuoco per capire l'entità dei danni. E purtroppo quello che si è determinato l'altro ieri era stato preannunciato, perché gli immigrati si sentivano braccati, non vogliono essere rimpatriati e pertanto vogliono andare in Italia. Avete avuto promesse in queste ore? Siete ancora in attesa? Ma io ieri ho cercato di parlare con il presidente Berlusconi e il ministro Maroni. Devo dire che non è stato possibile perché erano in riunione fino a tarda sera. Ho parlato con il mio vice sindaco, la senatrice Maraventano della Lega Nord, che mi ha assicurato che il governo continuerà a trasferire gli immigrati. Naturalmente bisogna velocizzare i tempi perché gli immigrati attualmente sono fuori dal centro, la gente purtroppo per quello che è accaduto è incavolata, rischiamo di averla in mezzo alla strada a protestare e questo purtroppo non è una bella cosa, perché dopo 50.000 immigrati che abbiamo ospitato e siamo stati premiati da tutti per il buon senso e l'accoglienza e nei confronti degli immigrati, purtroppo ieri sera nel tardo pomeriggio quello che è accaduto è qualcosa ha riportato di la tensione. È qualcosa di vergognoso, perché di fatto si sono comportati ho usato parole dure, da delinquenti e non certamente da brava gente. Grazie al sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis, speriamo che la giornata di oggi sia più tranquilla. Alessandro Milan. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Come sarà invece la giornata con 24 mattino? Beh, allora intanto vedremo i giornali come al solito, li sfoglieremo, poi avremo il ministro Fitto ospite alle 8:20 per parlare ovviamente della situazione anche di tensioni dopo la bocciatura parziale di Standard & Poor's. giornali che ci regalano invece? Ma i giornali regalano tante notizie, ovviamente a parte quelle di stretta attualità. C'è una cosa che mi ha molto incuriosito, questa vicenda di un bamboccione di 41 anni che sta a casa con i genitori pur lavorando, e i genitori, disperati, dicendo non ne possiamo più, lo hanno denunciato. Ha 10 giorni per fare bagagli, andarsene, e altrimenti non lo so cosa succederà. Peraltro è stato denunciato intimandogli di andarsene di casa. E quindi lo sfratteranno da casa propria, sì, vedremo, ci vedremo. Ci stanno provando. Vedremo, ce lo racconterai tra poco. Le 6:51 minuti, vi lascio con Alessandro Milan. Noi ci risentiamo tra poco con GR24. Peter Bescapè, come sempre, in regia. Grazie anche ad Alessandro Longoni. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati.